Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi di nuovo Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, il tema, tanto per cambiare, entro mezzanotte greca il Parlamento deve votare con una maggioranza diversa da quella che regge il governo di Tsipras, come da più parti oggi si chiariva. Deve votare il piano definito, ci sono nuove agenzie di poco fa, definito dall'ex ministro Varoufakis, una Versailles, lì il ricordo e il rimando è al, dopo la prima guerra mondiale, il trattato che fu giudicato particolarmente punitivo per la Germania e secondo poi gli storici portò al poi all'avvento, non in maniera diretta, ma insomma all'orgoglio, alla reazione dell'orgoglio tedesco e all'avvento del nazismo, facilitò l'arrivo del nazismo. Oggi appunto Varoufakis ha detto: qui siamo di fronte a una nuova Versailles, un nuovo trattato punitivo nei confronti della Grecia. È intervenuto proprio il Parlamento di Atene. Poi attenzione, perché anche Tsipras era stato criticato a sua volta dal Varoufakis era stato criticato a sua volta da Tsipras ieri, e ricordo che Tsipras ha detto: Yanis Varoufakis ha commesso evidenti errori durante il negoziato, benché al principio sia stato capace di imprimere un buon ritmo. Mi assumo io la responsabilità. Essere un eccellente studioso non significa essere un buon politico. Si riferiva a Varoufakis, non a Monti, lo dico perché la battuta viene in automatico, nel senso che delle volte abbiamo visto che grandi economisti o importanti studiosi non hanno avuto una grande capacità politica, e allo stesso modo abbiamo visto dei grandissimi politici che non erano necessariamente degli economisti. Parlo sempre di ministri di carattere economico e finanziario. Dicevo, tutto appeso al voto greco, è scontata l'approvazione, l'appoggio a Tsipras da parte sostanzialmente di Neodemocrazia, che ha 76 deputati, Topotami in Fiume 17 deputati e il PASOK 13 deputati. Bisogna capire se questo basterà, perché stando alle ultime agenzie potrebbe avere la metà dei voti Syriza come voto favorevole rispetto ai 149 di cui dispone in Parlamento. Allora, tra l'altro, questo poi porterà, ma adesso vi arriveremo, anche a un cambio poi della strategia greca stessa. La borsa in questo momento come reagisce? Beh, sta sostanzialmente alla finestra. Milano guadagna lo 0,90, Parigi lo 0,30, Francoforte pure più 0,30, Londra invariata, gli Stati Uniti più 0,16, l'euro è leggermente indebolito ma 1,096. Tra i titoli segnalo bene Finmeccanica più 3%, Fiat Chrysler più 2,70, Luxottica più 2,60, poi un gruppo di banche tra cui la Pop Milano più 2,5, la Popolare Emilia Romagna più 2,20, Monte dei Paschi più 2,1%, bene tra i non bancari anche Buzzi Unicem più 2,14, poi ST Microelectronics guadagna l'1,80, CNH Industrial più 1,60, Exor più 1,40 come Enel, l'1,20 è il rialzo di Telecom Italia ma anche di Unipolsai. Il fronte opposto è rappresentato da Azimut che perde il 2,15, Mediolanum meno 1,60, Tods meno 1 come Moncler, lo 0,60 lo perde anche Prysmian. Di questo parleremo chiaramente. Oggi è uscito anche il rapporto da un lato dell'Istat, dall'altro di Nomisma, si occupano di povertà e di PIL. Devo dire la verità, secondo l'Istat, dopo 2 anni di aumento, l'indice che misura la povertà delle famiglie ha smesso di crescere, non è diminuito, attenzione. Gli indigenti, cioè i poveri assoluti in questo paese, restano 4.120.000 persone. Le persone, la povertà relativa invece colpisce il 10% delle famiglie, tra l'altro per un totale di 7.815.000 persone, 2.650.000 famiglie, come era purtroppo presumibile. La povertà, sia assoluta che relativa, colpisce più il sud che al nord, l'8,6% al sud, mentre siamo al 4% al nord e il 4,8% al centro Italia. Nel centro Italia, anche per quello che riguarda la povertà relativa, questo 10% si distribuisce in maniera molto diversa. Siamo al 32%. Praticamente nei piccoli comuni nel mezzogiorno si va dal 25,8 al 23%, e al nord invece migliora, passa dal 32 al 23%. Però al di là delle percentuali, il dato importante è quello che riguarda appunto il miglioramento della l'arrestarsi dell'aumento della povertà. Nel frattempo anche Prometeia segnala come per la prima volta da 7 anni quest'anno, per effetto di variabili esterne, sostanzialmente il minor prezzo del petrolio, ci sarà un leggero aumento del potere d'acquisto dell'1%, non capitava da 7 anni, con un aumento di consumi intorno allo 0,6%, ne parleremo più avanti. Però Prometeia rivede al ribasso le stime sul PIL del 2016, dall'1,6% le porta all'1,3%, perché dovrebbe rallentare la dinamica dell'export, complice la Cina, ma non solo. Comunque, andiamo con ordine, 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, visto che parleremo di Atene. Ricordiamoci anche del voto di Washington sull'accordo nucleare iraniano. Ieri se n'è occupato Focus Economia anche per quello che riguarda la ricaduta in termini commerciali con l'Iran, e invece proprio al voto di Washington sul nucleare iraniano sono dedicati 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Che cosa c'è in comune fra il caso Grecia e il caso Iran? Apparentemente nulla. In realtà c'è un punto in comune: le reazioni del mondo politico. Per una strana coincidenza, cambiando i nomi ma lasciando inalterate le parole, le reazioni in America del Parlamento americano all'accordo firmato da Obama con l'Iran sul nucleare sono esattamente le stesse che hanno accolto Tsipras in Grecia dopo la firma del suo accordo con i creditori. Il rimprovero è sempre lo stesso: ha svenduto l'America, ha svenduto la Grecia, non ha fatto un buon accordo perché ha accettato quello che chiedeva la controparte senza negoziare un deal migliore. Le ripercussioni di lungo periodo saranno terribili, stessi toni, stesso scenario. La difficoltà della politica di far passare accordi di grande respiro che coinvolgono non più una o due nazioni, ma un contesto internazionale. In realtà il destino dei due casi corre parallelo solo per ora. L'accordo dell'Iran firmato da Obama ha molte possibilità di passare, anzi quasi tutte le possibilità di passare, perché a settembre, quando riaprirà il Parlamento americano dopo la pausa estiva, la maggioranza di governo che ancora sostiene Obama è tale che riuscirà, anche con il diritto di veto che spetta lo stesso Obama, a far passare questo accordo definito storico. Per quanto riguarda la Grecia è più difficile fare previsioni. Già questa sera, quando si voterà, emergerà probabilmente una nuova maggioranza alle spalle di Tsipras, una maggioranza che non vede più gli aspetti e i lati più radicali della maggioranza di governo che l'ha sostenuto dopo le elezioni, ma una maggioranza più moderata, probabilmente con il centrodestra, uno scenario che piace ai creditori, ma che ancora deve passare un grande test, quello dell'elettorato greco e dell'opinione pubblica internazionale. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Dire che sono d'accordo con alcuni ascoltatori, quello dell'accordo con l'Iran è forse dal punto di vista non solo economico ma anche geopolitico una delle poche buone notizie di questo periodo, tra ISIS, Atene, bolla cinese, insomma, avere riaperto i negoziati, c'è il fronte commerciale, ma non è prioritario in questo momento. Il fronte geopolitico è fondamentale, avere riaperto con buona pace di Israele, ma insomma avere riaperto un fronte di dialogo con l'Iran è una delle poche buone notizie in un mondo che si sta, passatemi il termine, scusatemi, incasinando dal punto di vista geopolitico, geoeconomico, come mai avremmo immaginato negli ultimi periodi. E voglio essere buono a non usare quel termine. Comunque andiamo avanti con le altre notizie di questa giornata. Per quello che riguarda l'andamento del nostro spread, è basso, 113 punti, il tasso sotto il 2%, il divario Spagna-Germania a 115, quindi la Spagna torna a costare un po' più cara, leggermente, 2 punti rispetto a noi. L'Istat, dicevo, rivede al ribasso, ma ne parleremo più avanti, vede un leggero miglioramento per quello che riguarda l'indice di povertà delle famiglie. Il premier Renzi da Nairobi: l'Italia ha oggettivamente svoltato. Sì, la battuta sarebbe chiara, sì, ma verso dove, Renzi? Ha svoltato, ma verso dove? Ma c'è ancora tanto da fare. Se manteniamo il ritmo sulle riforme avremo dati di crescita significativi. Il Tesoro fa notare come le entrate tributarie e contributive nei primi 5 mesi dell'anno siano in aumento dell'1,1%. Per quello che riguarda sempre, diciamo, il ragionamento fatto da Renzi sulla svolta, poi ascolteremo anche alcuni passaggi su questo, ma insomma resta il tema posto dal Presidente del Consiglio sulle riforme di cui il nostro Paese ha bisogno. Faccio notare che da un lato oggi altre notizie riguardano il rapporto, la relazione dell'autorità sui trasporti, che in questi mesi di attività, pur escludendo il settore aereo, ha ricevuto più di 300 tra reclami e altre segnalazioni. Sul fronte taxi, NCC e Uber ha auspicato norme, non che si arrivi a un sistema normativo, non che queste questioni vengano risolte nelle aule dei tribunali. E poi ha detto che le aggregazioni autostradali fanno bene dal punto di vista della produttività complessiva del sistema. Il sistema potrebbe beneficiare di aggregazioni. E poi attenzione, l'avvento dell'alta velocità ha rivoluzionato le abitudini degli italiani. Su Roma-Milano il 65% va in treno contro il 36% nel 2008 e solo il 24% sceglie l'aereo, nel 2008 era il 50%. Poi aggiunge l'autorità: al servizio pubblico locale in Italia costa troppo rispetto a quanto incassa. Non ho visto, ma forse mi sono sfuggiti, nell'autorità per i trasporti, ragionamenti sul rapporto tra investimenti delle società concessionarie della rete autostradale e pedaggi, perché su quello un po' di polemica nel passato c'era stata. Comunque non c'è molto altro oggi, a parte appunto il rapporto di Prometeia e l'attesa per la Grecia. C'è il dato sull'economia cinese, che stavo per dimenticare, ma è importantissimo visto quello che sta capitando in Cina: 7% nel secondo trimestre, è stabile, per cui è un dato basso per la Cina. Il Giappone ha tagliato invece le stime sulla sua crescita, portandole all'1,7% contro il 2% di stima di una crescita del PIL che veniva individuata solo ad aprile. Per quello che riguarda invece la Cina, se ne è occupata anche il presidente della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, Janet Yellen, dicendo che i rischi arrivano dalla Cina, ma la situazione della Grecia è difficile. Ha comunque confermato che le condizioni dell'economia americana sono tali da giustificare probabilmente un aumento dei tassi di interesse quest'anno, ma anche perché la produzione industriale americana è andata nel mese di giugno meglio delle attese. Tutti ci aspettiamo che la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, aumenti il costo del denaro per frenare un po' il rischio di un'economia che si surriscaldi negli Stati Uniti, quindi troppa inflazione, e deve anche rientrare un po' sul deficit. certo che se l'Europa continua a creare questa confusione, indebolisce l'euro prima che si muova la Fed non ha bisogno di rafforzare il dollaro con i tassi di interesse, ma ne avrebbe bisogno per raffreddare un po' la sua economia, quindi si trova nella poco invidiabile posizione che da un lato, se aumenta i tassi, il dollaro si rafforza forse troppo, perché già adesso andrebbe bene così alla Fed a 1,09, però se non li aumenta rischia di imbarcare troppa inflazione come economia quella americana. In Germania intanto è andata tecnicamente scoperta l'asta dei Bund, quindi non è riuscita a trovare tutti i compratori per il suo debito. La Germania ha venduto i titoli a 10 anni per 4 miliardi di euro a fronte di una domanda che non ha raggiunto l'offerta iniziale, era di 5 miliardi, si è fermata a quota 4 miliardi, il rendimento medio è allo 0,88% contro lo 0,81 di giugno, quindi è anche aumentato il livello del rendimento del Bund a 10 anni, ma evidentemente non c'è in questo momento una fuga verso la sicurezza del debito tedesco e quindi non sono arrivati sufficienti, o meglio, non sono arrivate le offerte che la Germania si attendeva, pari ad almeno 5 miliardi. Allora, vedo molte altre domande, un po' di pazienza, andiamo col primo tema, che è chiaramente la Grecia, tanto farlo adesso, farlo fra mezz'ora, un'ora, cambia poco, non, il voto, stando quello che vediamo, non arriverà se non proprio a ridosso, poi magari verremo smentiti, arriverà il voto alle 8 di stasera, non arriverà se non a ridosso della mezzanotte. Intanto però sono arrivate già molte dichiarazioni, sia il Fondo Monetario che esponenti europei, che chiaramente anche politici greci. Allora, la plenaria del Parlamento dovrebbe iniziare alle 18, oggi in numerose riunioni dei gruppi parlamentari. Intanto si è dimessa, come già alcuni di voi sanno dai nostri GR 24, si è dimessa la vice ministra delle finanze greca Nadia Valavani, ha scritto una lettera al premier Tsipras dicendo è impossibile continuare a prendere parte al governo in carica perché le misure di austerità concordate con l'Europa conducono un paese su una strada senza ritorno. E su questo devo dire che ieri sera Tsipras, in un'intervista alla televisione pubblica RT, ha detto insomma gli europei sono stati vendicativi, dopo il referendum ero convinto che ci avrebbero dato più tempo. Mi assumo tutte le responsabilità per gli errori e le sviste e per aver firmato un testo in cui non credo. Ma ero obbligato a farlo. Non potevo sfuggire alle responsabilità, perché quello che è importante ora è garantire la sicurezza del paese e dei lavoratori, così che non subiscano una catastrofe economica, e assicurare la funzionalità del sistema bancario per proteggere i risparmi della gente. Quando ho fatto il referendum, credevo ci avrebbero dato un po' di tempo. I nostri partner sono stati vendicativi. Allora, così Tsipras, ma di questo ha parlato anche l'ex ministro alle finanze greco Varoufakis, che è stato, dopo le accuse mosse ieri da Tsipras, che ha detto Varoufakis ha commesso molti errori durante il negoziato, ha definito la proposta, o meglio l'accordo firmato dal governo greco, un nuovo trattato di Versailles, praticamente paragonando l'accordo firmato con l'Europa all'umiliante accordo che la Germania dovette firmare dopo aver perso la prima guerra mondiale. E apopsi mu ya tin Il mio parere sulla decisione del vertice europeo, per come è stato presentato all'opinione pubblica, l'ho già detto. L'ho definito un nuovo trattato di Versailles, un colpo molto pesante alla credibilità dell'Unione Europea, per gli ideali di integrazione europea e al progetto di creazione di un luogo comune di prosperità per tutti i cittadini europei. Leggendo le decisioni prese, non riuscivo davvero a credere ai miei occhi. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Allora, su questo, vabbè, al di là dello dello scontro tra Tsipras e Varoufakis, scontro postumo, il piano, da un lato vediamo dei sondaggi che dicono come in Grecia il 70% dei greci vorrebbe che il Parlamento approvasse l'accordo. Io non so se siano gli stessi sondaggi che davano in testa a testa i sì e i no, può essere visto come è andata. È certo che la tensione in Grecia si respira col coltello, ce lo raccontano tutti, che dopo l'euforia, la sbornia per il referendum, quanto è le banche chiuse per così tanti giorni e i prelievi ridotti a 60 euro, è chiaro che poi inizi ad avere paura, paura veramente. Che cosa prevede il piano? Che vi sarà un intervento finanziario a favore della Grecia di 82-86 miliardi in 3 anni, in cambio il governo greco si deve impegnare a collocare in un fondo apposito le attività dello Stato greco per 50 miliardi, una specie di cauzione, quelle destinate poi alla privatizzazione. Dal ricavato i primi 25 miliardi saranno usati per rimborsare all'ISM i soldi sborsati per ricapitalizzare le banche greche, 12 miliardi e mezzo saranno usati per ridurre il debito greco ed eventuali ulteriori introiti per 12 miliardi e mezzo potranno essere usati per investimenti. Attenzione anche qua agli ordini delle priorità. I primi 25 li dai ai tuoi creditori, i secondi 12 e mezzo li dai per ridurre il debito, solo i terzi 12 miliardi e mezzo, ammesso e non concesso che tu riesca a intascare 50 miliardi delle privatizzazioni, potrai usarli per gli investimenti. E questo è esplicitato nell'accordo, questo tipo di priorità, di ordine di precedenza. Il fondo in questione avrà sede in Grecia e sarà gestito da autorità locali, per quanto sotto la supervisione dell'Unione Europea. Poi 35 miliardi proveranno dalla Comunità Europea e saranno destinati allo sviluppo, e stanzierà, vista l'eccezionalità della situazione, subito 1 miliardo per gli investimenti. Deve riformare nel frattempo la Grecia l'IVA, le pensioni, l'Istituto Nazionale di Statistica, introdurre tagli semiautomatici alla spesa in caso non si raggiungono gli obiettivi, quella che abbiamo anche noi, la clausola di salvaguardia, e poi recepire la riforma del codice di procedura civile e la direttiva europea sul fallimento degli istituti di credito, quella che prevede il bail-in, cioè che da Cipro in poi paghino gli azionisti, non pagano più. Non c'è più il fondo, la banca centrale che li salva, pagano in primo luogo gli azionisti, poi gli obbligazionisti, ma anche i correntisti sopra i 100.000 euro. Vittorio D'Aroldi in collegamento da Atene, buonasera. Buonasera a voi. Sei davanti al Parlamento? Sì, esattamente, qui si sta mettendo in atto un'altra delle solite paradossi greci. Si farà una manifestazione contro l'austerity, mentre dentro il partito di Syriza chiede ai suoi, in questo momento è in corso una serrata riunione con i deputati, 149 deputati, con Tsipras, che sta chiedendo loro di votare l'austerity, perché è l'unico modo per salvare il paese. L'ho detto proprio chiaramente, se avete una proposta alternativa ditela e io lo accetto, ma se non c'è dovete seguirmi e non spaccare il partito. Però questa mattina il comitato centrale, che è formato da 211 persone, 109 hanno detto di non accettare appunto le misure di austerity, quindi il partito è spaccato, ma non ci sono rischi perché le opposizioni hanno già detto che correranno in soccorso al governo e quindi il piano verrà approvato. Quindi lui avrai 76 voti, perché 109 mi hai detto gli vanno via da Syriza? Dunque, il comitato centrale è composto da 211 persone, ma non sono tutti deputati, quindi sono, è appunto una questione di partito. Perché i nostri calcoli davano Siriza con la metà dei deputati che non avrebbero votato, quindi una settantina. Sono 149 i deputati, sì, di Siriza, ma per ora sono 40 quelli che sono a rischio, che fanno capo alla cosiddetta ala radicale di Lafazzani, che è il ministro dell'energia, quello che ha bloccato tutte le privatizzazioni di cui tu parlavi prima, per cui 50 miliardi insomma sono abbastanza un obiettivo, diciamo così, ambizioso, perché lo stesso ministro dell'economia quindi, ha detto ieri che non ci sono 76 deputati li avrà Neodemocrazia, Topotami 17, Pasok ne porta 13. Dopo il metro e la pubblicità, però, Vittorio, io vorrei capire se, al di là del fatto che il Parlamento greco torto collo voterà questo accordo, perché ormai, al di là del referendum, la Grecia, brutto dirlo, ma è in ginocchio economicamente, tu ce lo puoi anche raccontare e testimoniare da lì. Io vorrei capire se però non ha ragione chi dice tanto questo accordo servirà solo a prolungare la degenza, sì, qualcosa otterrai, ma comunque dovrai alla fine rinegoziare il debito greco, che è la posizione che sta esprimendo con forza in queste ore, in questi giorni, il Fondo Monetario Internazionale, che dice tanto in ogni caso la Grecia non riuscirà a ripagarti questo debito. Dopo il meteo. State ascoltando un programma offerto da... Lo sanno tutti, Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo, plin plin. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vittorio Darold, manco ci avessero ascoltato, è uscita adesso l'agenzia che il premier francese Manuel Valls ha appena dichiarato che ci sarà comunque, i partner europei seguiranno comunque l'annuncio del Fondo Monetario Internazionale e effettueranno un reprofiling, un riscadenziamento del debito greco. La Francia è la vera novità di queste trattative, purtroppo invece l'assenza dell'Italia è stata una conferma in queste trattative. Poi nessuno si offenda, ma un'assenza assordante. Perfino i commentatori stranieri hanno detto: pensavamo che l'Italia avrebbe fatto un po' di più. Ah, vuoi stare con la Merkel o vuoi stare con la Grecia o vuoi stare con la Francia? Diciamo, boh, troppi tatticismi, poi ti lasciano col cerino in mano. Infatti non si è capita ancora la nostra posizione. Va bene, per quello che riguarda invece la posizione europea e le critiche, o meglio i dubbi avanzati dal Fondo Monetario, che ha detto guarda che tanto la Grecia non ripaga, se non riuscirà mai a ripagare. Oggi è intervenuto anche il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, che ha detto, è lituano, attenzione ai cognomi, perché i lituani, come molti paesi del nord Europa, sono anche più duri della Germania su questa vicenda greca. Ha detto: non vi sono molte opzioni per utilizzare o aiutare la Grecia nel breve periodo, ce ne sono solo due: o prestiti bilaterali o l'uso del fondo IFSM. Però non ci sono le prospettive per prestiti bilaterali, quindi useremo a sto punto il fondo. Alla luce dei limiti politici, legali, finanziari e temporali, erano rimaste due sole opzioni realistiche: prestiti bilaterali o l'uso del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, l'EFSM. Attualmente non ci sono prospettive per prestiti bilaterali e quindi, in assenza di altre soluzioni migliori, la strada percorribile rimasta è quella del programma EFSM. L'EFSM è uno strumento comunitario che può fornire assistenza finanziaria sotto forma di prestiti a tutti gli Stati dell'Unione Europea. Ecco perché, in risposta alle richieste da parte delle autorità greche, la Commissione ha proposto al Consiglio di concedere un'assistenza immediata, della durata di 3 mesi, attraverso l'EFSM. Non è stata un'opzione facile e siamo consapevoli delle forti preoccupazioni dei paesi che non fanno parte dell'area euro. Stiamo quindi lavorando a misure per proteggere i paesi che non fanno parte della zona euro da possibili conseguenze finanziarie negative, nel caso i prestiti non fossero rimborsati. Quando l'ESM, il Meccanismo Europeo di Stabilità, è stato predisposto, i capi di Stato e Governo avevano deciso che il fondo EFSM non sarebbe stato usato. Quindi è chiaro perché alcuni Stati siano molto preoccupati. È evidente che dobbiamo affrontare queste difficoltà di natura politica. Siamo qui per sostenere la Grecia mentre riforma la sua economia e dà speranza alla sua popolazione. Hope to its people. Sì, però Vittorio, restano le preoccupazioni e i dubbi del Fondo Monetario che potrebbe addirittura non aderire al piano. E anche Cameron, il premier inglese, ha detto: ha ragione il Fondo Monetario, bisogna alleggerire questo debito greco, anche perché io. Da sempre si dice che l'economia non riparte se non ripartono gli investimenti anche pubblici, perché è inutile raccontarci balle. Anche negli Stati Uniti e in Gran Bretagna tutto è ripartito grazie a soldi pubblici, poi ridati, ma se non c'era l'intervento e l'aumento del deficit, Gran Bretagna e Stati Uniti erano ancora in ginocchio. Allora, se ho ben capito, le priorità però di queste privatizzazioni vedono solo al terzo e ultimo posto gli investimenti. Non è che stiamo giocando così a tatticismi politici, e tanto poi, come dice il fondo, bisognerà andare a rinegoziare e quindi ridurre il debito greco? Sì, esattamente così. Il debito greco, secondo il premier maltese, che si è fatto sfuggire questa cifra quando è uscito dal vertice di Bruxelles, ha detto sì, ormai è al 200% del PIL, quindi dopo questi sei mesi di negoziati che sono stati completamente inutili e il referendum e la chiusura delle banche, la crisi è peggiorata ovviamente e ha portato al 200% del PIL. Nessun paese può pagare un debito di questa natura, quindi è ovvio che andrebbe quantomeno appunto ristrutturato, certo, come dice il Fondo Monetario. E poi gli investimenti, come dicevi tu, sono veramente una cenerentola, e non è chiaro se questi investimenti sono semplicemente fondi già iscritti, quindi i fondi del famoso piano Juncker, di cui però ancora nessuno ha mai visto nulla, e semplicemente quindi fondi iscritti già a bilancio che erano già previsti. Le privatizzazioni di 50 miliardi, vuole dirlo, ma sono un sogno dei desideri. Ma di cosa stiamo parlando? Ma 50 miliardi non li riuscirebbe a fare l'Italia in questo momento di privatizzazioni, e abbiamo 10 volte il PIL greco. Cioè, io non lo so, ma a me sembra veramente che questa ideologismo tedesco, teutonico, nord europeo, diciamo, che ti porta anche a far credere a delle balle, delle favole totali, pur di dire che siamo riusciti a punire la Grecia. Va bene, diciamo che la Grecia riuscirà a privatizzare 50 miliardi di roba, va bene, dai. Se siamo contenti così, tanto secondo me tra un anno siamo appunto anche meno. Siamo punto a capo. Esattamente, perché quello che non funziona è proprio questa austerità in un periodo di recessione, una cosa che ci siamo già detti molte volte, eppure questa ricetta ancora una volta è infatti l'unica che prima deve ripagare, poi deve ridurre il debito, poi come ultima cosa con ciò che resta può fare gli investimenti. Ma già è un paese che esporta poco, io dicevo con una battuta esporta solo lo yogurt, non è così. Però attenzione, non è un paese vocato all'export, non è l'Irlanda, la Grecia, che aveva un sistema l'Irlanda di servizi molto competitivi, è bastato rimettere a posto alcune cose, avere un prestito, ridurre il valore immobiliare, ma poi l'Irlanda è ripartita. Però facciamo finta che sia l'Irlanda, va bene, dai, se va bene così agli europei e ai tedeschi sono più contenti, così possono fare vacanze tranquilli. Teniamoci agganciati a questa follia quando ormai tutti, gli Stati Uniti, Cameron, il Fondo Monetario, ti dicono: ma di cosa state parlando? Tanto sto debito non è in grado di ripagarlo, rinegoziatelo e basta. Io non sono un inguaribile keynesiano, però attenzione che gli Stati Uniti, a chi me lo sta scrivendo, sono usciti, e la Gran Bretagna, da questa recessione, dalla crisi, utilizzando un massiccio intervento della finanza pubblica, sennò il deficit non ce la facevano a quei livelli. L'Irlanda, ripeto, andate a prendere l'Irlanda, il sistema produttivo dei servizi irlandesi e quello greco, e mi dite, non è che tutte le ricette, non è che un medico dà sempre la stessa medicina a tutti i pazienti. Quello greco era particolarmente complicato. Comunque, detto ciò, grazie Vittorio Darold, vedremo intanto come va il voto, ma mi sembra che anche tu abbia pochi dubbi sul fatto che comunque la maggioranza Tsipras la troverà. Traffico. Focus Economia. Allora, restiamo in tema di export, perché non c'entra nulla la Grecia in questo caso, ma poi ne parleremo anche sulle prospettive di crescita, perché oggi all'Expo sono stati anticipati alcuni dati. Sapete che noi stiamo seguendo l'Expo soprattutto dal punto di vista economico per quello che riguarda la filiera agroalimentare italiana. Ebbene, Nomisma ha presentato un'iniziativa congiunta tra la SACE, che è il società pubblica che aiuta le imprese italiane a esportare assicurandole e riassicurando sui crediti, con Cariparma, Crediti Agricole e Fiere di Parma. Hugues Brasseur, che è direttore generale vicario di Cariparma Crediti Agricole, ne ha parlato, perché è un'iniziativa che serve a garantire sull'export in alcuni, soprattutto in alcuni mercati più lontani, più difficili, Russia, Estremo Oriente, Giappone, Messico, Indonesia, Turchia. Dicevo, il direttore generale vicario di Cariparma Crediti Agricole ne ha parlato con la nostra Alessandra Scaglioni. Un accordo molto concreto che prevede di sostenere tutte le aziende che cercano a svilupparsi all'internazionale. Prevediamo di dedicare con loro un plafond di 150 milioni. Più potremo esaurirlo presto, meglio sarà. Quindi chiaramente una prima tappa che facciamo con loro. Poi vogliamo anche dedicare non solamente questo plafond alle aziende che lavorano all'estero, ma anche e soprattutto le piccole e medie aziende che hanno bisogno di credito di campagna per superare un momento un po' più difficile, diremo così. Quindi doppio obiettivo: internazionalizzazione e credito di campagna sul territorio italiano. Ci sono delle specifiche particolari o è un progetto che riguarda le aziende in generale del settore? No, è veramente un plafond totalmente dedicato all'agroalimentare, ma lo vogliamo anche riservare non solamente sull'aspetto produzione, ma anche per esempio su costi di logistica per svilupparsi all'estero. Dal vostro osservatorio, le prospettive di crescita di questo settore italiano nell'arco dei prossimi 2 anni? Ma ormai vediamo che, al di là del fatto che l'agriagro è qualcosa di anticiclico, vediamo che poco a poco questa idea di made in Italy, di eccellenza italiana, fa la sua strada non solamente in Italia ma anche all'estero, e quindi siamo molto fiduciosi nella capacità dell'agriagro italiana a svilupparsi. Occorre chiaramente di superare ancora alcuni elementi. Il primo, secondo me, è oggi ancora aiutare le aziende a essere ancora più strutturate, come l'hanno fatto la Germania, la Francia, e quindi ci credo molto, nel senso che partiamo di una partenza, una base di grande qualità. Oh, adesso c'è la borsa. Dunque, qualcuno dice: ma come fa a confondere l'intervento americano con Keynes e monetarismo? Chiamatelo come volete, però gli Stati Uniti, se non possiamo tornare sugli Stati Uniti, per uscire dalla crisi hanno imbarcato deficit, non hanno il tetto del 3%, hanno speso 8.000 miliardi dalla stima iniziale per salvare il sistema finanziario, di soldi pubblici, poi se li sono fatti ridare, ma li hanno messi questi soldi pubblici, hanno inondato il mercato di liquidità stampando dollari al ritmo di 120-130 miliardi al mese finché è stato necessario, e si sono preoccupati solo di una cosa: degli occupati, non dell'inflazione. Bene, questo è l'approccio keynesiano americano, o comunque noi abbiamo fatto gli americani monetari, siamo solo preoccupati del deficit, solo preoccupati dell'inflazione, e i risultati si sono visti. Qualcuno critica il tono con cui traduco le situazioni economiche. Guardi, io non posso fare un programma di accademia economica, ci sono tante altre fonti per questo. Cerco di far capire a tutti quello che sta capitando, perché è già abbastanza difficile. Se le sembra che il linguaggio sia un po' troppo prosaico, poco aulico, poco sofisticato, mi dispiace, insomma, ma non è un corso di economia in università. La borsa più 1,28% nel finale, Parigi più 0,30%, Francoforte più 0,20%, Londra invariata, l'America pure guadagna quindi qualcosa solo l'area euro, in particolare Milano, ma ripeto, mercati molto alla finestra. Finmeccanica più 3,16%, Luxottica più 3,15%, Fiat Chrysler più 3%, come la Popolare Emilia Romagna, Buzzi Unicem più 2,5%, come ST Micro Electronics. Continuando invece con le banche, Pop Milano più 2,30% come Monte dei Paschi, il 2% lo guadagna CNH, l'1,90% rialzo di Exor, l'1,60% quello di Enel e di Unipol SAI. Negativa Azimut del 2%, Tods dell'1,3%, Mediolanum meno 1,14%, Moncler meno 0,40%. Come sempre i mercati finanziari li facciamo con i colleghi di Radio Colli sulle 24 ore. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. Allora, un dato complessivo, l'analisi complessiva, poi dopo il GR24 andiamo sui singoli titoli. Sì, l'analisi complessiva è che i mercati europei continuano a essere positivi sulla Grecia, anche se in Parlamento europeo le cose non si mettono al meglio. Piazza Affari è stata la migliore, trascinata al rialzo soprattutto dai titoli finanziari, hanno fatto particolarmente bene le banche, soprattutto quelle popolari, nell'attesa di operazioni straordinarie che si profilano all'orizzonte. In più anche Monte dei Paschi ha fatto più 2,37%, anche in questo caso gli investitori scommettono su operazioni straordinarie. E questo per quello che riguarda lo scenario complessivo. Poi dopo il GR24, appunto, tu già citavi alcuni titoli del risparmio gestito, lì c'è notizia, c'è il richiamo della Consob sulla distribuzione della clientela retail di fondi esteri e estero vestiti, un po' di attenzione anche sui petroliferi e poi qualche titolo minore dopo il GR24. I nasi elettronici, il contaapi, i droni che sorvolano i campi. Ma anche la cottura in lavapiatti. O le fragole sospese. E internet fra i vigneti. E il pomodoro nero. Questo è Foodlab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo tutti i sabati alle 15 e domenica alle 7:10 del mattino qui a Radio 24. State ascoltando un programma offerto da... Ciao, sono Alessandro Del Piero. Il mio segreto a 40 anni? Bevo Liveto, acqua della salute. Focus Economia. e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Eleonora Micheli, dicevamo Azimut e Mediolanum oggi contrastati. Sì, Vai. E poi altri titoli più bassi, più piccoli come. Sì, sì. Ieri come i titoli del risparmio gestito erano andati male, anche quest'oggi hanno continuato a soffrire, risentendo. Ieri è uscita la notizia del richiamo della Consob, soprattutto sul rispetto della direttiva MiFID sulle commissioni di performance, richiamo ovviamente a tutte le società di gestione. Ma oggi in prima battuta in verità questi titoli hanno tentato il rimbalzo, ma alla fine hanno continuato a essere venduti. Perché gli analisti e gestori si interrogano non tanto sulle mosse della Consob quanto sull'eventuale meccanismo di calcolo delle commissioni da performance che potrebbe essere rivisto. In tal caso i più penalizzati sarebbero proprio Azimut e Mediolanum, ecco perché hanno sofferto più di altre società. E poi un titolo minore, oggi dicevamo un po'... Dopo l'accordo con l'Iran c'era un po' di movimento sui titoli petroliferi, poi un po' ha ritracciato anche Eni, ma è chiaro che si iniziano a fare i ragionamenti. Dicevo, sui titoli Eni ha fatto alla fine più 1,20%. Tra i titoli minori, Aeroporto Marconi di Bologna, com'è andato? Sì, Aeroporto Marconi di Bologna più 5% nel secondo giorno di contrattazione. Ieri ha fatto il debutto a Piazza Affari, ma quest'oggi il Messaggero ha scritto che Bonomi con il suo fondo Invest Industrial avrebbe acquisito oltre il 9% del capitale e quindi questo ha dato il là agli acquisti. Poi semmai sempre tra i titoli minori, proprio sul finale poco prima della chiusura di borsa, è stato dato l'annuncio che Tiscali si fonderà con Ari. aria, nascerà dunque una nuova società. I titoli di Tiscali sono volati quasi del 20%, del 19,5%. Peraltro la nuova società avrà, diciamo, come socio di riferimento con oltre il 40% i russi di Oktrite, mentre invece amministratore delegato dell'azienda sarà Ruggero, ex manager di Telecom Italia, e Renato Soru, che era il fondatore di Tiscali, sarà presidente. E appunto questa, scusatemi, la reazione del mercato, tra i migliori e i peggiori in assoluto, visto che già vi accennavamo, appunto, tu facevi riferimento a Tiscali, che infatti guadagna il 19,56%, poi c'è i grandi viaggi più 15,22%, Digital Brothers più 5,95%, fronte opposto, Visibili Editore meno 12%, Media Contact meno 5%, primi sui motori meno 3,85%. Grazie anche a Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Occupiamoci adesso dei dati economici sull'Italia. Oggi le fonti, iniziamo dall'Istat ricorda come si sia arrestato, cioè si sia fermato l'aumento delle coppie che, o meglio delle persone in Italia che vanno in povertà, nel senso che l'Istat dice dopo 2 anni si ferma l'indice di povertà delle famiglie, gli indigenti sono 4 milioni e invece la povertà relativa colpisce 7 milioni e 800 mila italiani. Il dato non è negativo, che non vuol dire che sia ancora positivo, non è un gioco di parole. Comunque un commento sul rapporto Istat, che è il rapporto, diciamo, sulla situazione sociale del paese. Il nostro Simone Spezia lo ha chiesto al direttore del Dipartimento delle Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat, Linda Laura Sabbadini. Abbiamo 1,5 milioni di famiglie che sono in povertà assoluta, che poi vuol dire i più poveri tra i poveri, cioè coloro che non possono permettersi di comprare quel set di beni e servizi fondamentali che servono per avere una vita dignitosa, quindi non solo il mangiare, ma anche tutto il resto, l'avere una casa, l'avere la possibilità di comunicare, di prendere trasporti e così via. Allora cosa succede? Che ovviamente il dato non è basso, siamo a 4 milioni di persone che stanno in questa situazione. Il dato, diciamo, positivo è che dopo 2 anni di crescita di questo segmento di popolazione così in difficoltà, la crescita si è arrestata, quindi conosciamo una stabilità che è trasversale al paese, al nord, al centro, al sud, e abbiamo dei segmenti che stanno migliorando. Il miglioramento è solo di alcuni segmenti, per esempio le famiglie di soli italiani migliorano, quelle dove ci sono stranieri no. Le famiglie con 2 figli migliorano, quindi vuol dire che si è abbassata in questo caso la povertà assoluta, e in più migliora anche le famiglie con a capo una persona in cerca d'occupazione. Questo perché queste famiglie hanno al proprio interno più occupati o ritirati dal lavoro, cioè in sostanza magari una persona disoccupata, capofamiglia del sud, ha perso il lavoro, la moglie è riuscita a trovarlo, oppure hanno deciso di andare a vivere col proprio genitore anziano che ha la pensione, per capirci. Restiamo su questi temi dopo il traffico. Focus Economia. Torniamo in diretta, dicevamo dell'indagine Istat sulla spesa delle famiglie, che mostra appunto come dopo 2 anni l'incidenza della povertà assoluta si mantenga stabile. Ripeto, non è un buon dato, ma non è nemmeno un cattivo dato. Il 5% delle famiglie residenti nel nostro paese, 1.470.000, sono 4 milioni di persone, sono in condizioni di povertà assoluta, in particolar modo al sud l'8,6% contro il 4,2% al nord e il 4,8% al centro. Ancora, questo vale anche purtroppo come dato, come distribuzione, anche per la povertà relativa. Nel frattempo è uscito anche il rapporto di previsione sull'economia italiana dell'Istituto Prometeia, dove vengono anche individuate e registrate dinamiche di leggero miglioramento sull'andamento del reddito disponibile per gli italiani. Allora, siamo in collegamento con il segretario generale di Prometeia, nonché docente di politica economica all'Università di Bologna, professor Paolo Onofri. Buonasera innanzitutto. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, dicevamo, l'Istat vede un leggero miglioramento, attenzione, appunto, si arresta l'indice di povertà, non aumenta, resta stabile, con 4 milioni di italiani che vivono in condizioni di povertà assoluta, e 4 milioni e 120 mila persone per la precisione. Quello di povertà relativa coinvolge sostanzialmente 7 milioni e 815 mila persone, 2 milioni e 600 mila famiglie, però vede migliorare anche la situazione economica delle coppie con figli leggermente. Voi nel rapporto che avete presentato notate come anche qui, sempre senza cantar vittoria, senza edulcorare una situazione che resta molto difficile, c'è un incremento del reddito disponibile degli italiani come non accadeva da 7 anni a questa parte, professor Onofri? Sì, certamente, e questo è dovuto a una concomitanza di fattori positivi, soprattutto se lo valutiamo in termini reali, vale a dire al netto della variazione dei prezzi, e su questo agisce la riduzione del prezzo dei prodotti petroliferi all'origine e all'utilizzo finale, incide quel piccolo miglioramento che dall'anno scorso è in atto della situazione occupazionale, perché l'occupazione complessiva è aumentata dello 0,2% nel corso del 2014 e stimiamo che aumenti dello 0,4% nel corso di quest'anno. Quindi questi sono elementi che, assieme anche agli aspetti di finanza pubblica, gli 80 euro l'anno scorso confermati nel 2015, assieme a quegli adeguamenti di pensioni che verranno erogate ad agosto, sostengono la formazione di reddito disponibile. A fronte di questo, quello che valutiamo è che ci sia un piccolo incremento di propensione al risparmio, vale a dire, se immaginiamo che il reddito disponibile cresce in termini reali dell'1%, i consumi stimiamo crescano dello 0,6%, il che vuol dire che c'è un aumento della propensione al risparmio per via delle incertezze facilmente intuibili in questa situazione, ma anche per il fatto che negli anni della crisi la ricchezza delle famiglie si è ridotta in termini reali e di conseguenza, appena c'è un po' di disponibilità di reddito, questa va anche in una parte maggiore rispetto alla media passata a risparmio. Quindi voi dite, si era talmente compressa la propensione al risparmio e al consumo in questi anni che, come c'è un leggero miglioramento, come un elastico, diciamo, molto teso, torna un po' a risalire. Però per capire che non si sia di fronte sostanzialmente al cosiddetto rimbalzo del gatto morto, lei sa come dicono gli inglesi, che se tu lanci un gatto da un grattacielo, questo poi quando a terra rimbalza, ma non è che sia tanto vivo. Quindi per capire se si sia o meno di fronte a un rimbalzo ma non a una vera tendenza, secondo lei bisognerà aspettare che cosa, e come mai in questo scenario di un leggero aumento dei consumi, di un leggero aumento della propensione al risparmio, di un leggero miglioramento del reddito disponibile, voi avete rivisto al ribasso il PIL italiano? Perché c'è una componente estera che sta indebolendosi. Sia l'Europa, la UEM in particolare, ma anche l'Europa più in generale, che l'Italia in questo ultimo anno hanno sperimentato una crescita della domanda interna un po' più sostenuta di quella delle esportazioni. In altre parole, ha contribuito un po' di più alla crescita del PIL europeo e di quello italiano nel 2015 la domanda interna che non le esportazioni. Perché? c'è in atto un riaggiustamento, forse anche di natura strutturale, nel commercio mondiale, in cui il peso crescente che abbiamo avuto negli altri anni dei paesi emergenti tende a rallentare la crescita, e quindi abbiamo un minor contributo che si aggiunge quest'anno dovuto alla domanda che viene dai paesi emergenti. Questo tende a far rallentare un po' quella crescita che prevedevamo all'1,5%, adesso prevediamo all'1,3% nel 2016. Ma per quello che riguarda i consumi, quindi ci sarà meno contributo dell'export rispetto al passato, un leggero contributo in più dei consumi, ma non sufficiente, quindi dall'1,6 voi stimate l'1,3%. Mi scusi, in questo export meno forte del passato, pesano più i rischi di una bolla sul mercato cinese, quindi con una conseguenza che se poi questa bolla esplode, la correzione è già in atto sulla borsa asiatica e in primo luogo sulla borsa cinese, però se dovesse diventare più strutturale creerebbe una diminuzione dei consumi in Cina e quindi una diminuzione del commercio estero, oppure temete che la Grecia poi di fatto abbia un effetto anche sull'andamento complessivo dell'export, non verso la Grecia ma europeo? Dal punto di vista finanziario dobbiamo temere di più la Grecia, dal punto di vista dell'economia reale di più la Cina, vale a dire uno sgonfiamento ancora più consistente della bolla cinese che trasmette i suoi effetti a noi con modificazioni di domanda da parte dei cinesi. Però questo l'abbiamo già osservato negli ultimi mesi di quest'anno, quelli che siamo appunto, diciamo il primo semestre di quest'anno, c'è stata una caduta del 20% delle importazioni dalla Cina, ma questo vale per l'Italia come vale per la Germania, i due paesi più presenti in termini intensivi nell'attività manifatturiera. Più vocati anche all'export. Siamo già più vocati all'export, ma queste sono osservazioni, fatti che abbiamo già visto. Ecco, restando però, visto che è di estrema attualità, abbiamo aperto il programma proprio sulla Grecia e andiamo a chiuderlo su questo. Lei diceva il rischio finanziario più alto sulla Grecia, capisco cosa vuole dire, e cioè il rischio che poi un fallimento di tutto il percorso greco porti a un nuovo attacco speculativo sui debiti dell'area europea. Però voglio dire, vedremo oggi se ce la farà Tsipras a trovare una nuova maggioranza di fatto su questo impegno che ha preso e su queste misure che i contrari definiscono draconiane, addirittura il golpe del 67, Varoufakis oggi ha parlato di una nuova Versailles, come ricordando quel trattato particolarmente punitivo nei confronti della Germania dopo la prima guerra mondiale. Mi dà un commento anche su questo, perché secondo me il vero punto non è solo sapere se è troppo punitivo, troppo pesante per i greci, ma se in questo modo la Grecia poi riuscirà ad essere un debitore affidabile, quindi rimettersi leggermente in sesto e reggere questo debito, oppure se fra 10 mesi siamo appunto a capo. Ma non c'è una valutazione implicita della affidabilità residua del debito greco una volta attuate quelle misure. Ha fatto queste valutazioni prima ancora che l'accordo fosse stilato il Fondo Monetario, e ha valutato che non vi sia la possibilità che il debito pubblico greco sia sostenibile, salvo un taglio del valore del debito oppure una sua estensione di 30 anni nelle scadenze. Gli accordi dell'Euro Summit vedono in prospettiva il crearsi le condizioni per andare a trattare sulla lunghezza dei rimborsi del periodo di grazia, e quindi lasciano aperta questa possibilità. E in ogni caso la difficoltà, a mio parere, sta nel fatto che tutti i passaggi che sono previsti, controlli molto duri da parte ed ex ante, non ex post, da parte delle istituzioni europee rendono il processo molto molto stretto, lo rendono anche probabile di inceppamenti, e quindi queste condizioni possono creare, non immediatamente se anche il governo greco, il Parlamento greco approva e così quello tedesco e così via, ma possono rendere abbastanza probabili incidenti sul percorso. Di conseguenza rimane ancora una forma di incertezza diffusa circa la possibilità che effettivamente... Scusi, però io non capisco una cosa. Se, come dice il Fondo Monetario, tanto con qualunque misura la Grecia tanto non riuscirà a ripagare il debito, a meno che non lo o lo riduci o lo allunghi come scadenza, che poi è la stessa cosa di fatto, nel senso che quindi riduci il debito. Allora, tutto questo percorso, perché cosa l'abbiamo fatto? E mi riferisco a queste estenuanti trattative. È solo per un problema di principio alla fine? È un problema di mostrare che esiste la possibilità di tenere dentro anche un paese che è in estrema difficoltà. Poi questo modo di procedere, ma non solo degli ultimi giorni, ma degli ultimi mesi, ha certamente, come hanno detto in molti, creato un gap di fiducia fra le parti, e questo gap di fiducia fra le parti si è riflesso in tutti i controlli e nella meticolosità di individuazione delle scadenze dei diversi passaggi. Siccome non mi fido, ti vincolo ogni passaggio. Voglio vedere cosa stai facendo prima che tu lo faccia e che cosa hai intenzione di fare. Staremo a vedere intanto come voterà il Parlamento greco. Grazie all'economista Paolo Nofi, segretario appunto generale di Prometeia. Grazie a lei. Veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiremo domani anche per commentare il voto greco dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.